La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Buon Natale a tutto il mondo orientale e un augurio anche a quello occidentale. Attendendo Babbo Natale con questo freddo polare, lo vediamo pieno di doni in cielo volare. Spensierato dalla crisi globale, il mio caro Babbo Natale chissà che cosa mi vorrà regalare. Quest'anno anch'io ho fatto una lettera per Fizio, l'ho fatta per tutti gli anziani in un ospizio, perché ha perso i soldi alle sue asperfizio e rassicurare chi ha paura di questo povero tizio. Vorrei donare un sorriso per chi sta in ospedale, dare un conforto a chi adesso sta male, abbracciare chi in questo momento sta soffrendo e asciugare le lacrime a chi sta piangendo. A chi ha un cancro gli auguro di poter guarire e che smetta soprattutto di soffrire. La vita è bella perché si può gioire e non è bello aver paura di morire. Darei affetto a chi non ha una mamma e un papà, starei accanto ai figli con un padre militare e chi sta nei Bronx senza acqua e pane dargli qualcosa per poter campare. Così possono smettere di sognare. Buon Natale, oggi si può festeggiare. Buon Natale, vieni qui con me a cantare. Buon Natale, oggi si può festeggiare. Buon Natale, lascia tutto e vieni qui a cantare. Se festeggi il Natale da solo non facci caso, apparecchia la tavola senza torcere il naso, accendi un lume e mettilo in un vaso, fallo con la felicità che si nota anche sul tuo viso. Brinda e festeggia in tutti i modi più che puoi, Gesù bambino è nato, lo puoi festeggiare con o senza i tuoi. La magia del Natale ti circonda anche se tu non lo sai, chiudi gli occhi e lo scoprirai, poi da solo lo capirai. Cosa capirai? Che la magia del Natale viene una volta all'anno, la neve bianca sopra i tetti è uno sballo, il cammino acceso con te in casa è solo d'inverno, i bimbi che giocano con il pupazzo di neve all'esterno, i cuori dei cattivi si sciolgono come ghiaccioli e io che ti faccio tanti auguri da entrambi le estremità dei poli. Buon Natale, oggi si può festeggiare. Buon Natale, vieni qui con me a cantare. Buon Natale, oggi si può festeggiare. Buon Natale, lascia tutto e vieni qui a cantare. Auguri di Buon Natale a tutti quanti, mi raccomando, se avete litigi in famiglia fate pace. Se i litigi sono le cose più brutte del mondo, allora la guerra che cos'è? Fate pace, mi raccomando, ci conto, Buon Natale.